Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Esce in questi giorni il nuovo libro della scrittrice iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003. Si intitola La gabbia d'oro, tre fratelli nell'incubo della rivoluzione iraniana, e racconta la storia vera di tre fratelli che si dipana dalla fine del governo dello Shah fino alla dittatura di Ahmadinejad. Il Corriere della Sera di lunedì 20 ottobre ne anticipa il prologo. Aspettami qui, torno tra poco, disse all'autista della macchina a noleggio. Controllai nello specchietto retrovisore che il foulard coprisse bene i capelli, ma non avevo di che preoccuparmi. Era incollato alla fronte dal caldo. Appena scesa dall'auto, l'aria torrida del deserto di Kavaran mi investì come il morso di una fornace. Era pieno agosto, l'afa insostenibile. Per un attimo fui tentata di ritornare dentro, nell'abbraccio artificiale dell'aria condizionata. No, non potevo. Inutile pensarci. Sistemai meglio la borsetta sulla spalla e mi avviai con passo spedito. Passando accanto alle vecchie tombe indù e bahai, mi avvicinai alla folla che si stava radunando. Le fosse comuni, probabilmente. Una distesa informe di erba e terriccio senza neppure una recinzione. I corpi di migliaia di oppositori politici, caduti sotto i colpi dei Pasdaran, erano stati ammassati lì, uno sull'altro, come spighe falciate. Non meritavano neppure un funerale o una sepoltura in un cimitero musulmano. Zed e Engelab, controrivoluzionari. Nessuna cerimonia, forse vi faremo sapere dove si trova il corpo. Solo questo si sentivano dire le famiglie dei condannati. La morte si scopriva dopo settimane, mesi di silenzio, incertezza, assenza. Con Javad era stato così. Ero lì per lui. Da molti anni avevo smesso di capirlo, ma non sarebbe mai uscito dal mio cuore. Lui e tutta la nostra generazione violata, dilaniata da mezzo secolo di ideologia in lotta per il dominio sul mio paese. La nobile Persia, lo sventurato Iran. In quel giorno senza respiro, ero lì per Javad, da cui mi aveva separato la storia, e per Parì, Abbas, Ali e tutti gli altri. Per ricomporre gli anni di incomprensione e lontananza, cancellare le parole di odio e ritrovarne altre, quelle della nostra antica amicizia. Mi unii al nutrito gruppo di donne. Arrivavano lente come una migrazione da ogni parte, madri, mogli e sorelle che stringevano in mano un garofano o una rosa rossa. Erano diverse in tutto, ma avevano tutte lo sguardo fiero e senza lacrime. I morti come questi si piangono solo a casa. Riconobbi al centro la donna che chiamavamo la madre, la portavoce del loro dolore. Si muoveva a fatica in mezzo alla folla. Sotto il foulard si intravedevano i capelli bianchi e radi. 70 anni forse. Suo figlio, un ingegnere che aveva studiato in America, era sepolto da qualche parte a Kavaran. La madre alzò lentamente il braccio e prese la parola. Il brusio cessò. Oggi siamo qui per ricordare. Lo sappiamo bene che il sangue non si lava con il sangue. Siamo donne, non guerriglieri. Mogli e madri e figlie e sorelle che hanno già visto fin troppa violenza. Uccidere gli assassini non riporta a casa le vittime. Taci, miscredente! Non erano vittime, ma traditori. Zed e Engelab, e dovevano morire. La voce risuonò nell'aria tesa sopra le nostre teste. Cercai con gli occhi la donna che aveva parlato. Era avvolta da capo a piedi in un chador nero. Vidi che eravamo circondati da donne e uomini del Goru e Feshar. Le forze che attaccavano e disperdevano le manifestazioni erano pronte a entrare in azione ancora una volta. Ci stringemmo in cerca di protezione, spalla contro spalla, incerti sul da farsi. Mi tornarono in mente le parole di mia madre mentre uscivo di casa. «Shirin Jun, cara, non andare, è pericoloso!» Mi attraversò la mente il pensiero che forse l'anno prossimo sarebbe toccato a lei ricordare sua figlia sulle sabbie insanguinate di Kavaran. Come obbedendo a un tacito ordine, il Goru e Feshar estrasse catene e coltelli. Stavano per colpire. Intorno, solo silenzio e l'odore compatto della nostra paura. Si lanciarono all'attacco della cerchia più esterna. La folla sbandò. Le donne correvano in ogni direzione, schivando calci e pugni. I pochi uomini furono immediatamente raggiunti dai Lebas Shaksi, gli agenti in borghese. colpivano alla schiena con manganelli e intanto ringhiavano. «Così finalmente la smetterete con queste adunate da traditori. I vostri figli non meritano nessuna cerimonia. Erano nemici di Allah e dell'Iran. Dovevate pensarci prima e trasmettere loro i giusti valori. È colpa vostra se sono morti». E trascinavano via le loro vittime semisvenute, bagnando la sabbia con sottili rivoli di sangue. Quasi tutte le persone a terra avevano i capelli bianchi. Una delle donne in chador, che lanciava pietre contro la madre, riuscì a colpirla in fronte. Alla vista del sangue, come impazzita, proseguì più in fretta, una gragnola fitta di colpi, come se non le bastassero tutte le pietre del deserto. Alcune compagne la imitarono. La madre restava immobile. I sassi fischiavano intorno al suo corpo diritto. «Vigliacche», mormorava, gli occhi fissi. Neppure io riuscivo a muovere un passo, come paralizzata da quella scena di una violenza irreale. Una donna mi strattonò scappando. Non saprò mai se abbia voluto aiutarmi o solo scansarmi. In ogni caso mi risvegliò da quella sorta di ipnosi. Presi a correre anch'io dietro quella sconosciuta. Vedevo confusamente volti di donne accasciate. Sentivo il suono metallico delle catene, l'odore metallico del sangue. La madre ora gridava «Vigliacche!» Ma era sempre più lontana. Inciampai in una radice. Caddi. Mi rialzai. Finire travolta e calpestata era un attimo. O essere colpita, in quella mischia che confondeva amici e nemici. Il cuore mi era salito in gola. Rimbombava nel cervello e copriva ogni pensiero. Correvo, con la gola secca e senza più fiato. Un uomo mi afferrò per il braccio e ciecamente mi voltai per sferrargli un calcio. «Signora Ebadì, sono io!» Era l'autista. Mi trascinò in macchina quasi di peso e partì a tutta velocità. Priva di forze, mi asciugai il sudore che mi pungeva gli occhi e cercai di calmarmi. Sentendo per la prima volta freddo, abbassai gli occhi e mi accorsi che nella fuga avevo perso una scarpa. Sollevai il piede su un ginocchio. La pianta era graffiata e perdeva sangue. Guardai cadere una goccia densa sul tappetino dell'auto e solo allora avvertii il bruciore delle ferite. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Shirin Ebadì, Iran, i morti si piangono solo a casa, dal Corriere della Sera del 20 ottobre. Letture di Radio 24. In un libro intervista realizzato da Maurizio Becker, il noto impresario Mauro Minasi ripercorre 30 anni dedicati al mondo dello spettacolo. Si intitola «Quanto mi dai per Endrigo?», parafrasando il titolo del romanzo semi-autobiografico «Quanto mi dai se mi sparo?», nel quale il cantautore friulano raccontava la storia di un artista passato dalle stelle alle stalle. Ecco come Minasi ricorda la sua collaborazione con Endrigo. Tra i tanti artisti cresciuti nell'ambiente del night che tu hai seguito, il più importante è senz'altro Sergio Endrigo. Sì, ma anche lui era passato per quell'esperienza. Era partito con gruppi come quello di Riccardo Rauchi e Vittorio Seghetti. Sergio era veramente un personaggio molto complesso, sfaccettato. Pur essendo un autodidatta, possedeva ad esempio una cultura molto vasta, forse disordinata, ma non paragonabile a quella dei suoi colleghi. Era uno che leggeva moltissimo. Leggeva di tutto, e poi era un poeta, vero, di nascita. È questo che poi gli ha consentito di collaborare con artisti come Rafael Alberti. Era curioso, affamato di novità, sempre alla ricerca di sinergie di quel tipo. Per un artista del genere, il night era una sorta di vicolo cieco, no? Lui lo sapeva. E difatti a un certo punto mi chiese di mandarlo in Medio Oriente. La sua idea era guadagnare di più e potersi poi permettere di tornare in Italia con dei soldi in tasca per giocarsi finalmente la carta discografica. E difatti così facemmo. Quindi l'idea di lanciarlo come cantautore in qualche modo esisteva sin dall'inizio? Che Sergio fosse un cantautore, io l'ho scoperto solo quando l'ho portato alla Ricordi. Era una persona molto introversa, si apriva con difficoltà, quindi nemmeno lo sapevo che si dilettasse a scrivere delle cose. Quanto tempo rimase in Medio Oriente? Se non sbaglio, gli procurai due ingaggi. Il primo lo fece al famoso Scemmario di Beirut, che poi sarebbe diventato la Casbah. E il secondo ingaggio? Fu quello determinante. Lo mandai a Beirut con un'orchestra capitanata da Vittorio Seghetti. Quella volta rimase 6 mesi. È difficile immaginare un uomo come Endrigo in quel tipo di situazione. Difatti non gli piaceva. Quel lavoro può piacere a un incosciente, a un debosciato che ama passare le notti bevendo whisky. Endrigo era una persona a modo. Per lui quello era solo un modo per sbarcare il lunario. Funzionava con quel tipo di pubblico? Sergio funzionava sempre e dovunque, perché era un grande artista. Poi però ne ebbe le tasche piene e decise di tornare in Italia per tentare la carta discografica. E quale fu la tua mossa? Lo portai da Nanni Ricordi, che per prima cosa gli domandò se per caso avesse delle canzoni sue. Almeno così raccontava Endrigo. È la verità. E Sergio tirò fuori una cosettina che aveva messo da parte e che si intitolava Bolle di sapone. Il suo primissimo disco. Sì, la carriera di Sergio iniziò così. Come lo ricordi a quell'epoca? Un introverso, ma molto generoso e per bene. Parlami dei vostri rapporti extraprofessionali. Avevamo un'amicizia molto solida. Abbiamo passato un'infinità di serate a casa sua, a Casale di Mentana, dove abitavano anche molti altri musicisti. Bacalov, Morricone, Bardotti, Pisano. E appena a pochi passi Gianni Morandi, un altro grande amico di Sergio. Beh, non conoscendoli li direi due uomini molto diversi. Lo erano, senz'altro. Però avevano in comune un certo tipo di riservatezza. Anche Gianni, in fondo, è uno che evita la confusione. Insieme però si stava bene. Erano comunissime serate fra amici. Con lui hai anche viaggiato tanto. Soprattutto in Brasile, ma anche in Francia. Sergio girava sempre in compagnia della moglie, Lula. Una donna bellissima e simpaticissima. Di dove era originaria? Di Terni, anzi, di Montecastrilli per la precisione. Stavi parlando della sua personalità, ci eravamo fermati al whisky. Tutti gli artisti hanno un aspetto più o meno evidente che li caratterizza. Secondo me è colpa della professione che fanno, che inevitabilmente finisce con il condizionarli. Ti riferisci al fatto di esibirsi davanti a un pubblico? Mi riferisco al fatto di cantare una canzone e giocarsi tutto in 3 minuti. È una cosa pazzesca. Se ci pensi bene, hai 3 minuti per convincere e se non ci riesci, rischi di ricadere nell'anonimato. È una cosa che può sconvolgere qualunque persona. E in lui si percepiva molto questo stress? No. Endrigo non dimostrava quasi mai le sue emozioni. Ragionava con calma. Era nervoso, ma anche molto introverso. Cosa non sopportava? Tutte le manifestazioni di allegria futile. Il classico tipo che detesta i veglioni di Capodanno. È così. Lui i veglioni li odiava. E infatti non era facile farlo lavorare a Capodanno. Quella allegria forzata, esibita, lo irritava. E con le donne come si comportava? In questo era davvero un po' particolare. L'idea stessa di dover conquistare una donna lo infastidiva. Non amava fare la corte. Al contrario di me, che invece lo considero la parte più divertente del rapporto fra un uomo e una donna. La galanteria era una cosa che non gli apparteneva per niente. Con le donne era un gran signore, si intende, ma il galante no, non lo faceva. In questa cosa mi ci riconosco molto. Forse dipende dal fatto che era restio all'artificio in generale. E in fondo che cos'è la corte se non un artificio, una finzione? Hai detto la cosa giusta. Sergio era restio all'artificio, in tutte le cose. Ciò nonostante era un amante della compagnia. Amava appartarsi con pochi amici. Fare delle cenette molto semplici, informali. Questa riservatezza se la portava anche nel suo rapporto con il pubblico? Sì, giusto. Sergio si concedeva, ma non troppo. L'affetto del pubblico gli faceva piacere, ma non voleva mai oltrepassare i limiti. Come reagiva di fronte a manifestazioni di calore un po' eccessive? Ce ne saranno state, no? Nel 1968 facemmo una grande tournée in Brasile con Roberto Carlos. A quell'epoca Sergio era già conosciuto, ma la vittoria di Sanremo e l'accoppiamento con Carlos lo trasformarono in un vero e proprio divo. All'aeroporto di Porto Alegre ci aspettava una folla tale che fummo costretti a fuggire nascosti nel bagagliaio di un'auto. Ecco, in una situazione del genere altri ci avrebbero goduto. Lui no, era disorientato, spaesato. Preferiva la normalità anche nel successo. E dimmi del suo impatto con questo successo. Se lo immaginava così? Il cambiamento c'è stato, è vero. Ma era pur sempre un mondo che già conosceva. E poi va detto che nel successo Sergio c'è entrato per gradi. Non è stata una cosa improvvisa. Ha avuto tutto il tempo di abituarcisi. Avete ascoltato la lettura di un brano del libro Quanto mi dai per Endrigo? Libro intervista a Mario Minasi, realizzato da Maurizio Becker, Comiglio Editore. 226 pagine, euro 19,50.